La, ra, fre. Oh, sì, cantando e ricantando il cuore. Oh, miracolo, miracolo, miracolo, miracolo, miracolo, miracolo, Signore. Il cuore, il cuore, il cuore, il cuore, è fatto nu, Signore. Il cuore, il cuore, il cuore. Oh, miracolo, miracolo, miracolo, Signore. Yeah.